radiocittaperta.it, la tua radio online. Suono l'eco del ventre della terra. Giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari, forte come il tuono, calda. Il cammino non può essere che di sangue. La canzone del fango rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita. Pur morendo, vivendo il dolore, la fine non può essere che dolce, definitiva. Ben trovati a tutti quanti, buon inizio di weekend a tutti voi. Alternitalia, come ogni venerdì da questo momento fino alle ore 18, c'è questa trasmissione che vi fa ascoltare il meglio dell'underground italiano del presente e del passato. E allora oggi avremo ospite una band chiamata Manuel Pistacchio, formazione romagnola che torna con il terzo disco. Un sound essenziale, minimale, tra cantautorato, indie, folk, qualche vena psichedelica, veramente molto bravi e molto riuscito anche questo nuovo disco dal titolo Pellegrino. Se qualcuno ha buona memoria e segue Alternitalia ricorderà che qualche anno fa, nel 2021-2022, adesso non ricordo bene, vennero proprio qui in studio anche a suonare dal vivo. Oggi non sarà così, li raggiungeremo al telefono, i Manuel Pistacchio, che non è un artista in solo ma è una band, un trio. Oltre a ciò parleremo di prossimi concerti, parleremo anche chissà anche di qualche altro appuntamento, sicuramente ascolteremo tanta bella musica. Io ho una scaletta già così non preparata, perché non preparo le scalette di Alternitalia, mi circondo di tanti dischi e idee e poi vedremo cosa verrà fuori. Però potete interagire quindi con me aggiungendo ulteriori idee con le vostre richieste in ambito di sola musica italiana. Come fare? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, su Instagram sempre mi trovate come Gianluca Polverari, su Facebook c'è anche la pagina fan della trasmissione e si chiama Alternitalia. Ovviamente saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, perché magari tante persone sono impegnate al lavoro e in questo momento non possono seguire. C'è il podcast per potergli ascoltare la trasmissione quando preferite. Podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com e su Amazon Podcast. Condividerò come classico poi sui social la scaletta e i link, così potrete leggere ben bene tutti gli artisti che mando in onda. Per chi segue la diretta, ricordo che si può leggere in tempo reale sul sito di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta, sulle app collegate a Radio Città Aperta tipo TuneIn, Radio Garden, Radio e altro. Potete leggere in tempo reale il brano che sto mandando in onda, quindi leggete il nome dell'artista, il titolo della canzone, se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Chissà se farà vedere la copertina di questo brano che è uscito proprio oggi. sale sugli occhi. Ne ho conosciuta io di gente, però nessuno mai come te. E così nudo, muove punta di piedi. Cosa cerco non so, cosa voglio non so. Ha detto che la musica disco funk contemporanea debba venire solo da Napoli. Viene anche da Milano con questi giovani, sono ancora molto giovani, molto bravi, io li ho visti anche dal vivo. Si chiamano Il Mago del Gelato, In Punta di Piedi, il nuovo singolo per questi ragazzi, quindi ce li stiamo gustando insieme ancora in sottofondo, In Punta di Piedi e un punto di musica entro nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre orecchie soprattutto, perché magari state anche passeggiando da qualche parte per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Salutiamo anche tutti gli alieni che ci ascoltano da altri, da altri mondi, da altri pianeti, tutti collegati su Alternitalia per conoscere l'underground del nostro paese. Saluto Filippo, Roberta, Silvia, Cinzia, un bacio ad Emma, un saluto ad Angelo. Fabio, Paolo, Eugenio. Diciamo, chi l'ha detto che solo da Napoli può venire questo tipo di musica? Appunto, viene anche da Milano con Il Mago del Gelato, però adesso andiamo a Napoli con qualcuno che fa questo stile di musica, rendendolo anche un pochino più aggressivo. Si chiamano Psyche o Psyche. Musicisti, sono attivi alcuni di loro anche con Inugenea. Questa è Kuma. Psyche, uno dei bei dischi pubblicati dalla Four Flies Records. We'll be right back. da Napoli Psyche, Kuma, la traccia d'apertura da questo bel lavoro strumentale per la formazione partenopea. E allora, dopo essere andati a Milano, poi essere andati in quel di Napoli, non fai un salto anche a Castelfranco Veneto, quindi in provincia di Treviso, per ascoltare un po' di pop così stravagante, sbilenco, che abbiamo anche presentato con la band stessa qualche tempo fa. Disco edito dalla Soviet Studio, dalla Dischi Soviet, ossia gli Eraclea. Questa è la loro Agosto, sì, siamo a febbraio e loro però cantano di agosto. Vediamo se condividete il loro pensiero riguardo al mese trattato. Uomini che sembrano sottomarini atomici, donne in mimesi con gli aeroplani. Uomini col pedigree accompagnano le donne a far pisciare i cani. Luci blu sia tra le stelle che nel fondo del mare. Dillo tu che abbiamo i figli sperduti dentro un cellulare. Dillo tu che sembra un film sci-fi venuto male. Dillo tu che fa sempre più caldo. Ma che caldo che fa in agosto. Meglio il bosco, meglio il meglio. Stai nel fiume, prendi il sole ed è il ghiaccio di Dio che ci dà. Refrescia il gin lemon. Sulla luna quest'anno si ascolta soltanto John Lemon. La musica è quella dei Veneti Eraclea, che raccontano di agosto, di questo mese che io personalmente fatico a vivere. Beh, certo, uno può andarsene in viaggio, è il periodo delle vacanze, se riesci a fare un bel viaggio che stacchi dall'afa di quel mese, tanto bene per chi ci riesce, però tante volte non è così per vari motivi lavorativi o di altri impegni che ti impediscono di muoverti, oppure magari ti ritrovi in certe zone affollatissime, piene di varia umanità che talvolta è anche un po' fastidiosa. Insomma, è un mese che io personalmente non amo, quindi concordo un po' con quello che raccontano gli Eraclea dal loro lavoro che abbiamo ascoltato e che abbiamo gustato con la traccia intitolata Agosto. Oh, si parla di amare, non di amare, ma di amare. mare, come di andare a mare, almeno è scritto così, per questi ragazzi che si chiamano Lo Straniero. Basso del subwoofer si fondeva. Formazione che avrò ospite venerdì prossimo, proprio all'interno di questa trasmissione intitolata Alternitalia. E allora, dal loro album Mazzapè, questa è A Mare, Lo Straniero. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Un segno sulla schiena hanno messo per iscritto che non valevo nulla. Ma io avevo una ragione per farmi trascinare dal mare e dal vento. Dal caldo degli attraversamenti, dal freddo degli avvertimenti, dal dolore dei denti, dalla fretta dei luogotenenti. M'è bastata la tua bocca per sentirmi meno sola, e se ora sono qui è solo un caso fortuito, per una questione di sangue, lungo una rotta spezzata da un'onda impazzita. Paga più che puoi, dammi i soldi tuoi. Ama più che puoi, dammi i sogni tuoi. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Prima tirati come sassi con l'anima pesante, senza più riflessi. Vuole reagire nelle file sul pontile, chi mette tutto in ballo getta l'ultimo bagaglio. Cercavo la linea terrena, provavo a stare serena, aspettando una bandiera straniera. Cercavo la linea terrena, provavo a stare serena, aspettando una bandiera straniera, aspettando una bandiera straniera. Tutto ciò che resta non è un canto disperato chiuso negli abissi, ma il futuro della tua vita. Tutto ciò che resta non è un canto disperato chiuso negli abissi, ma il futuro della tua vita. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Paga più che puoi, dammi i soldi tuoi. Ama più che puoi, dammi i sogni tuoi. Paga più che puoi, dammi i soldi tuoi. Ama più che puoi, dammi i sogni tuoi. Cercavo la linea terrena, provavo a stare serena, aspettando una bandiera straniera. Cercavo la linea terrena, provavo a stare serena, aspettando una bandiera straniera. Stretta nella gola, voce soffocata, cerca via di fuga. Voce soffocata in un vortice veloce, corre nella luce. Egva, e voilà, questa è la musica dello Straniero, formazione di base in Piemonte, li conosceremo meglio settimana prossima quando presenteremo questo album dal titolo Mazzapè. Letargo fra la vetrice, pezzi di ricambio, prendiamo il necessario, apriamo il nostro sguardo. E allora, prima dell'intervista che arriverà tra breve con Manuel Pistacchio, ecco, ci creiamo questa atmosfera di provincia romagnola. La pianura. Come quella raccontata un po' anche da Manuel Pistacchio, ma anche dal lungo addio di Fabrizio Testa. Beh, abbiamo presentato nel corso degli anni i vari progetti del lungo addio, che avevano un impianto più cantautorale molto minimale e scheletrico. L'ultimo lavoro si apre a sonorità anche un po' più scure e decadenti. Questa è Adriatico, proprio la title track per il lungo addio. Morire già libera, morire scia, morire in sano. Il lungo addio da Adriatico, l'ultima fatica del progetto guidato dall'ottimo Fabrizio Testa, impegnato veramente su più fronti, su più band, più progetti. Uno di questi è proprio il lungo addio. Un progetto che ci ha portato nella provincia romagnola. E allora ci incamminiamo proprio in questa splendida provincia ricca di suggestioni che riguarda anche la musica di Manuel Pistacchio, nostri ospiti oggi qui su Radio Città Aperta per presentare il loro nuovo album Pellegrino, 9 tracce, tutte minimali, molto sicuramente toccanti, e dunque andiamo ad ascoltare qualcosa da un album con tutte composizioni molto brevi ed essenziali. Un disco che ora ci ascoltiamo con parole, tra poco avremo Emanuele Pistacchio qui nei nostri studi, o meglio al telefono, comunque li avremo. Per favore parole, asciugate queste macchie, pulite il mio passato e ogni sasso legato, lacrime puzzano di bruciate, un collo di bottiglia, sono un uomo nel respiro rotto, l'afasia. Quando l'amore è diventa tappezzeria con pareti rosse, i quadri cosmorfi, le ferite che sono porto, e cartoni hanno macchiato il mio cuore e occhi da pesce, un corpo da verme che vuole scappare. Per favore parole, rompete il peccato, la catena dell'odio, la verità che muore. Uno dei brani, dei 9 brani che compongono questo album di Manuel Pistacchio, formazione che viene dalla Romagna e che è composta appunto da Diego Pasini, Lorenzo Camera, che è membro già di Ponzio Pilates, dei Mondo Riviera, e poi da Francesco Giampaoli dei Sacri Cuori, Hugo Reis, Fatalist e molto altro ancora. Diego Pasini con noi al telefono. Ciao Diego, ben trovato. Ciao a tutti voi, grazie mille dell'invito. Ben ritrovato, citato come ormai tre anni fa ormai, è rivenuto, sì, anche in radio con un set acustico. Oggi invece siamo al telefono, ma chissà, magari più in là si può ripetere anche quella esperienza se passerete da queste parti. Allora, Manuel Pistacchio, nuovo lavoro, Pellegrino, il terzo. Un lavoro, come ho descritto, di cantautorato alternativo, indie folk, molto minimale, e devo dire sei riuscito. Allora raccontaci un po' di questo nuovo album, Manuel Pistacchi, appunto, giungono al terzo lavoro, ripeto, non è un artista in singolo ma è una band, un trio, e dunque c'è questo lavoro dove io, vabbè, ho buttato lì giù anche l'idea o il concetto di provincia romagnola che in qualche modo può ispirare anche l'immaginario di Manuel Pistacchio, ma non solo. Ecco, dici tu un po' che cos'è questo Pellegrino. Ma è un album che è nato, diciamo, dopo, sì, probabilmente dopo la pandemia, e abbiamo un po' riazzerato i conti noi nostri, siamo tornati in una dimensione di trio quando siamo anche passati di lì, dopo eravamo in un quartetto con Arianna Pasini. Esatto. E per varie scelte poi siamo, appunto, ci siamo trovati in trio, e da lì è nata anche l'esigenza, la volontà di scrivere qualcosa con questa nuova formazione insieme. Quindi è partito da questo discorso, poi c'erano già delle canzoni comunque scritte, pronte per essere arrangiate. Questa volta la scelta è stata un po' diversa, perché siamo andati subito in studio da Francesco, mentre per gli altri dischi abbiamo quasi sempre maggiormente lavorato a casa di Lorenzo, quasi come home recording, affidando poi la produzione a Lorenzo. Invece in questo caso ci ha messo le mani Francesco e nel suo magico studio Little di Dante, che anche ovviamente appartiene anche Little di Dante assolutamente al concetto di Riviera e periferia, questo posto che è appunto alla foce del fiume Bevano, di fianco alla riserva naturale che si chiama Bassona, è appunto un piccolo paese marittimo. Lui ha uno studio in mansarda molto bello, molto particolare, con degli strumenti anche importanti, quindi abbiamo questa logistica poi ci ha anche mosso nel registrare un disco anche diverso, con un'estetica diversa, con un approccio più istintivo, se vogliamo, più da band, proprio per portare a voce anche quello che è la scrittura in trio, con un rapporto con lo strumento molto più vivo, diretto. Ogni take è stata fatta, diciamo, attraverso non neanche una pre-produzione, sto con un gesto molto istintivo, cioè sopra registrazioni, dove ognuno cercava un po' di imprimere il proprio carattere, la propria individualità artistica, e così un po' è nato il disco, ecco, senza, assecondando un po' gli eventi, nella fiducia sempre delle cose che ci stavano facendo, e ci siamo divertiti molto. Anche passare tutto il tempo insieme in studio è stato molto molto bello, anche a livello umano, passare del tempo insieme. Quindi penso che in questo disco ci sia molto di questo lato umano, di amicizia, di voglia di suonare insieme, in un luogo appunto che ce l'ha permesso, con strumenti fantastici, le mani di Francesco comunque, che mani sapienti di mixaggio, e quindi è stato davvero abbiamo assecondato noi un po' Pellegrino, più che aver avuto questa volontà di farlo. Noi abbiamo dato un po' l'impulso iniziale, poi gli eventi si sono susseguiti in maniera meravigliosa. Questo è stato. Eh sì, un disco questo, appunto, che si fa ascoltare veramente con molto piacere, capisce l'attenzione nel suo essere così scarno ed essenziale. Dicevi che questo è un disco nato post pandemia. Quando eravate venuti qui, però, era già era già post pandemia anche quel periodo lì, insomma. Quindi... Infatti sì, siamo venuti lì, era nel 2023, sì, o due. Comunque sì, le prime canzoni da lì a poco c'erano già delle canzoni scritte, e dopo quell'evento lì, diciamo, nel giro di breve siamo tornati in una dimensione di trio. Okay. E adesso devo un attimino bene con le date, faccio un po'. Aspetta, che cerco a questo temporale, punto. Faccio un po' fatica, però sicuramente esatto. Adesso la cerchiamo in rete, che ci aiuta, perché intanto è ancora online il podcast, sì, che realizzammo all'epoca. Grande. Così troviamo, vediamo. Mi ricordo che era la data, avevamo suonato il Tom Puller dopo la giornata in radio, uh-huh, e penso fosse il 2023, Allora, eccola qua. No, addirittura 29 ottobre 2021. Ah, perfetto, grande. Ottimo. Abbiamo sbagliato tutte le date, 22, il tempo fugge, già 4 anni, 3 anni e mezzo. Niente, proprio tempo attivo, vabbè, torniamo a parlare di musica. No, però parliamo di date, perché proprio oggi esce il disco, tra l'altro. Oggi è uscito il disco, sì, infatti, dai, siamo belli, belli felizotti. Disco che esce per le Brutture Moderne, che ha un catalogo decisamente molto particolare nella struttura di un certo tipo di suoni un po' più... mi viene da dire minimali, che spaziano tra il cantautorato, l'indie, il folk, qualche vena psichedelica, ecco, sempre un'ottima etichetta. Che tu cosa ne pensi del fatto, ecco, che incidete per questa label? Ma per noi è un po' una famiglia, nel senso, a parte che Francesco fa parte, cioè, è uno dei due soci dell'etichetta. Sì, sì, sì, esatto. Insieme ad una. Esatto, e quindi diciamo che le cose un po', siamo bravi a tenere distanti, ma un po' si mischiano, ma nel senso proprio umano del termine, perché mi sento, insomma, Francesco per me è un amico, quindi faccio fatica a vedere l'etichetta come qualcosa di così lontano. C'è anche proprio un discorso anche di amicizia forte. Poi vabbè, cioè, proprio a livello di etichetta siamo molto felici, siamo sempre onorati di farne parte dagli albori, quando hanno creduto in noi, quando siamo stati lì a far ascoltare il disco in questa chiavetta MP3, che erano ancora vani, quasi neanche mixati bene, hanno subito deciso di credere, di investire anche in questo progetto. Lo stanno facendo dal 2019, quindi è un normale rapporto molto di fiducia, molto bello, che si è creato, e anche di lavoro. Ci sono dei miglioramenti per entrambe le parti, di modo proprio di operare, di organizzazione, quindi siamo molto felici di farne parte. E poi, insomma, è proprio bello anche il panorama musicale che è trovato intorno a Brutture Moderne, insomma. Certo. Allora, io faccio ascoltare un altro estratto dal disco, Amore Furibondo, l'ottava traccia dall'album di Emanuele Pistacchio, oggi ospiti qui a Radio Città Aperta. Thank you. d'amore furibondo per Manuel Pistacchio, quindi Diego Pasini a rappresentare questo progetto, uscito oggi per la Brutture Moderne, terzo album. Tra l'altro vi faccio vedere la copertina nella diretta video di Twitch, twitch.tv/radiocittaperta. Potete vedere il video anche dalla home page della radio. Quindi c'è questa donna così svestita, possiamo dire, che cammina tra un prato, sì, direi. Poi ci sono foto interne e anche poi delle foto promozionali che vi ritraggono invece in mezzo a dei campi più di spighe, così. Ecco, dove avete realizzato questo shooting? Che zone sono? Allora, la foto di copertina è stata una circostanza particolare, perché avevamo fatto tutte le foto per la funzione col fotografo Nicola Baldassi. Poi in una cena, per vedere, guardare un po' queste foto, Francesco ha avuto la incredibile idea di tirare fuori, un po' come si fa quando si tirano fuori gli album vecchi di famiglia, diciamo, tirare fuori queste foto che lui scattò 30 anni fa in un viaggio con la sua compagna del tempo, e tra queste foto saltò fuori esattamente quella di copertina, e io ne rimasi colpito all'istante, proprio perché per noi, appunto, cioè, calza esattamente con tutto il tema dell'album, che è appunto Pellegrino, che più rappresenta più che un pellegrino esteriore, una sorta di pellegrino interiore, quindi che ha questa volontà, appunto, di percorrere anche un viaggio dentro di sé, e lo fa anche attraverso l'arte, sicuramente, per quello che ci riguarda. Quindi un po' lei rappresenta l'unione delle nostre tre individualità creative, diciamo, nel mio viaggione che mi ero fatto, che cammina appunto in questo viaggio che è verso questo albero, che rappresenta proprio una sorta di vita, di nascita. E per me, appunto, per quello che riguardano le tematiche delle canzoni, era molto calzante. Quindi la foto è stata proprio esattamente presa quella, scannerizzata e usata per la copertina, ed è una foto scattata tra l'altro con una UZZ, quindi davvero uno scatto magistrale quello di Francesco, devo dire. E mentre le foto interne, appunto, poi sono con Nicola Baldassi, che oltre ad essere un grande fotografo, anche nostro amico, segue la band, ha lavorato altre volte con noi, quindi entrambi molto contenti di lavorare insieme a questo progetto. Tutte le foto che abbiamo fatto sono sue. E mentre Serena Amatori ha lavorato per l'artwork, e abbiamo cercato un po' di continuare questo prato dietro, anche dietro il disco, cercare un po' di dialogare con la foto senza, appunto, poi non stravolgerla. Quindi il risultato è stato questo qua. E quindi un lavoro sicuramente molto interessante. Anche di solito, ecco, ci sono delle composizioni da lungo minutaggio, nel vostro caso invece restringete tutto all'osso, ecco. Sì, esatto. Come mai questa scelta? Ma è un po' la nostra caratteristica inconscia, se vogliamo, perché sempre ho fatto quasi sempre canzoni sempre molto brevi. Penso che, se si può parlare di colpa, penso sia la mia, perché parto sempre le canzoni che poi propongo a Francesco e Lorenzo sono sempre di base di natura molto breve, molto e io parto molto dal testo a scrivere la canzone, quindi non scrivendo cose insomma molto prosaiche o piuttosto che tra virgolette lunghe, la canzone si adatta sempre molto al testo, un po' questa volontà di mettere a fuoco le parole che una volta dette rimangono, cioè captare il momento di quella parola detta, insomma. Penso sia un discorso molto legato più al testo. Certo. E poi di base abbiamo anche queste caratteristiche un po', appunto, tra i primi di provincia, che un po' noi ci affascina e in qualche modo ci accompagna nel lavoro, che è un po' questo approccio pasoliniano alla musica, cioè creare per ogni canzone insomma dei contenuti sempre molto caratteristici, cioè portare fuori un po' questa idea di provincia come insomma bellezza del particolare. Esatto. E quindi ogni brano, diciamo, tendenzialmente cerchiamo di distaccarlo molto dagli altri, creare proprio un abito apposta su misura per quella canzone, Voi precisamente di dove siete poi? Che non ricordo più, Romagna, ma dove? Siamo Romagna, io e Lorenzo, adesso io abito proprio a Sant'Arcangelo, ma ho sempre abitato sulla riviera, tipo Bellaria Marina. Ok. Quindi Lorenzo, diciamo, siamo di Bellaria Marina, mentre Francesco è tutta la zona di Ravenna, Vido Zlatte, nello specifico. Quindi di Ravenna, diciamo. Zona Ravenna, assolutamente. Vi faccio vedere in camera la copertina del vostro disco pubblicato oggi in CD, o almeno io ho il CD, poi c'è in digitale. Sì, solo CD abbiamo fatto. Ci sta assolutamente. E ho visto, è uscito anche su Spotify, quindi più tardi, quando uscirà il podcast dell'intervista, troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro preso proprio da Spotify, così ve lo potete gustare. Prima di andarveli a vedere magari dal vivo, state organizzando delle date? Abbiamo già fatto circa 6-7 date, ancora quel disco, cioè quando hanno iniziato a uscire i singoli, tra cui siamo venuti anche lì a Roma, al Fanfulla. E le prossime date abbiamo il 22 marzo a Reggio Emilia, per Suner, che è questo festival di Arci Romagna, è un bel concerto all'Arci Marasma. Quindi avete fatto più concerti prima che uscisse il disco, sostanzialmente? Sì, abbiamo fatto una sorta di release, pre-release live, perché noi il disco comunque ce l'avevamo già fisico. Era disponibile. Sì, da novembre. Addirittura? Da novembre, sì, e quindi abbiamo cercato di dilatare un po' l'uscita, facendo poi prima questa, release solo live, quindi... per ascoltarlo live, e poi abbiamo fatto vari singoli appunto per preparatori, ecco. Certo. Anche un po' live. Comunque sì, ci sta, abbiamo visto che non ci siamo trovati male in questa insomma organizzazione, ha dato molto respiro all'uscita del disco, molto tempo anche perché insomma arrivi dove può arrivare, ecco, può aver senso. E dal vivo com'è questo disco? Nel senso che ha delle atmosfere molto essenziali e che meritano anche un'attenzione, dove intorno ci deve essere per certi versi anche un tipo di atmosfera e di ascolto un po' più silenzioso, mettiamola così. Ecco, come certo. Viene presentato dal vivo questo album? Sempre con lo stesso mood? O c'è sì, tendenzialmente cerchiamo di tenere il mood del disco, anche perché è stato registrato in maniera molto suonata, quindi non ci sono neanche troppe parti, ecco, quindi riusciamo meno male a portare praticamente il disco in trio, e ogni tanto entra qualche base, però siamo insomma, Lorenzo suona 3-4 strumenti, ogni canzone ha diciamo il suo strumento dominante, ecco. E poi sì, assolutamente l'ascolto, ma questo penso che non riguardi solo noi, un po' per tutti è fondamentale, perché insomma fa una grossa differenza, ecco, quando si riesce a creare sinergia con chi ti ascolta, prende tutta un'altra potenza l'esibizione. E il pubblico è rispettoso in linea di massima? Certo, sì, no, anche al Fanfulla è stata una bellissima serata di ascolto, anche se riusciamo a c'è una cattura, insomma, a volte succede, non sempre ovviamente, però però le date sono state molto belle. Ottimo, e la cosa mi fa molto piacere, perché merita insomma questo ascolto così attento, e sicuramente insomma un disco che ci fa piacere raccontare e presentare. Allora, in conclusione, al termine di questa chiacchierata, intanto lascio scegliere a te un brano su cui salutarci. Ok, ma direi Onda dopo Onda. Come mai hai scelto questa? Ma è quella che mi è venuta in mente, a dire la verità. Okay. Sono anche Figli Invisibili, forse no, forse posso cambiare, mettere Figli Invisibili, perché ho parlato, non so perché ho nominato la pandemia prima, di la verità, ho detto ma che cavolo ho detto, cioè alla fine effettivamente ci sono dei brani che sono, la scrittura inizia però in quel periodo, per cui Figli Invisibili, che parla appunto di questa... insomma questo collegamento che si ha tra le persone, che a volte si sente collegati senza essere fisicamente presenti. Certo. e le relazioni appunto si basano molto su questi fili di energia dove ci si scambiano anche informazioni, e nel momento in cui poi c'è l'isolamento ho notato proprio che questa cosa, quasi la comunicazione tra le persone avveniva proprio attraverso questi fili, questi fili di energia che in cui scambiavano insomma emozioni e bellezza. Quindi vorrei partire poi, insomma, sì, scelgo quella. Fili invisibili, già pronta qui per essere suonata sul nostro player CD, sul nostro grande CDJ. E allora, in conclusione, se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo, che vuoi sottolineare, come dico sempre, a te i microfoni. Ma io vi ringrazio per la possibilità, anche per Gianluca soprattutto, e ringrazio Orazio di Doppio Click, Brutture Moderne, Francesco per insomma sbattimento, Lorenzo, io solo ringraziamenti, insomma, al momento solo parole detto, buone, come si dice, esatto, solo cose buone, solo soddisfatto, felice, quindi grazie davvero per le domande. E allora, ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa intervista sul sito di Radio Città Aperta e troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro che esce oggi sul sito di RCA. Quindi, diciamo, il disco l'avete portato fisicamente dal vivo, però ufficialmente esce oggi, insomma. Esatto, esattamente. Perfetto, perfetto. Quindi c'è già qualcuno che ce l'ha, sostanzialmente. C'è già qualcuno che ce l'ha, è venuto ai concerti, ha potuto comprarlo, abbiamo fatto anche questa scelta perché almeno è per quei 4-5 mesi, per i super affezionati magari che volevano averlo prima, anche per creare un po' di distanza con la distribuzione digitale, insomma. Certo. Avere questa, insomma, viene a un concerto, la possibilità di comprare un disco che ancora, insomma, non è ancora uscito, quindi per dare un po' più valore all'oggetto, ecco. Chiaro, ottima scelta. E allora, Fili Invisibili per Manuel Pistacchio, nostri ospiti oggi qui a Radio Città Aperta Alternitalia. Grazie allora, Diego, per essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Questa è la canzone intitolata Fili Invisibili per Manuel Pistacchio. Vi faccio vedere ancora la copertina qui sulla telecamera che vi fa vedere poi la diretta Twitch, twitch.tv/radiocittaperta, e comunque potete andare direttamente sul sito di RCE, vederci in questo modo. Manuel Pistacchio, nostri ospiti qui oggi, RCE Altern Italia. Alza la schiena verso questo bagliore, lasciati E chi per certi versi ha raccontato la provincia con scatti fotografici molto belli è un fotografo che viene così tributato in un album. Lui è Mario Giacomelli, artista fotografo scomparso qualche tempo fa, insomma, nato a Senigallia e che ha realizzato parecchi scatti che riguardavano proprio le campagne, dei paesaggi oppure della vita proprio di provincia degli anni 50, 60, 70. Questi scatti sono stati musicati e comunque il suo pensiero è stato musicato da un progetto che viene sempre dalle Marche e che si chiama Tipografia Sonora. Anche in questo caso abbiamo raccontato l'album con la band, con i Tipografia Sonora, anche lì una bella chiacchierata che trovate online sul sito di Radio Città Aperta, quindi potete anche lì recuperare, ecco, questa intervista. E noi ci ascoltiamo dai Tipografia Sonora, La follia, Testa tra le nuvole. Eccoli qui, Tipografia Sonora. Thank you. La musica è quella di Tipografia Sonora, questo progetto che viene dalle Marche, sull'asse Ancona Macerata, dedicato, pensato per le musiche del grande Mauro Giacomelli, scusate, per gli scatti fotografici del grande Mauro Giacomelli. Tra l'altro, come ci dissero durante l'intervista, sono annunciate delle mostre. Quando abbiamo realizzato l'intervista c'era la mostra proprio nella sua Senigallia, nelle Marche, però poi erano annunciate altre mostre, se non sbaglio, anche qui a Roma, da dove trasmettiamo. Vediamo se in tempo reale riesco a trovare la notizia oppure no. Ah sì, dal 23 marzo al 29 maggio 2016 addirittura, quindi una cosa molto lunga, al Palazzo Braschi di Roma. Così lunga? Possibile? Un anno e mezzo? C'è qualcosa che non va, magari sì, e quindi lo potrete vedere anche al Palazzo Braschi con i suoi bellissimi scatti, per tutti coloro che si trovano qui in città da dove trasmettiamo. Chiaramente fatemi sapere da quali parti d'Italia o del mondo ci state seguendo. Saluto anche Fabrizio, Orazio, ben trovati a voi. Rimaniamo nelle Marche, ma con un qualcosa di datato della prima metà degli anni Ottanta. Loro si chiamavano Winterlight, era diciamo il progetto parallelo ai Baciami Bartali, grandissima formazione. Anzi, il primo album dei Baciami Bartali era proprio condiviso nel lato A, musica dei Baciami Bartali, nel lato B i Winterlight, che era una, diciamo, una riduzione dei Baciami Bartali con un sound ancora più cold wave. Eccoli qui, Always Unit, Winterlight, da Genga, insomma, tra Ancona e Jesi. Buon ascolto. We'll be right back. Winterlight, vecchio progetto che era parallelo ai Baciami Bartali, grandissima formazione, una delle più amate da me del post-punk e new wave italiano degli anni Ottanta. Questo brano appariva proprio nell'album primo dei Baciami Bartali, che aveva appunto nel primo lato musica dei Baciami Bartali, nel secondo i Winterlight, che era una costola, ripeto, proprio della formazione principale. Always Unique, traccia che però in questo caso oggi ho estratto da una compilation chiamata Mutazione, Italian Electronic New Wave Underground 1980-1988. E quindi tanti brani di varie realtà dell'epoca, ci sono i Diformi, i Neon, i Carmody, i 2 più 2 uguale 5, i Pelti, via dicendo. Allora, tempo fa, ormai qualche anno fa, un ascoltatore mi scrisse, chissà se è all'ascolto oppure no, non ricordo nemmeno il suo nome per avvertirlo, chi aveva mandato il messaggio, dicendomi: una volta hai trasmesso un brano dove si sentiva la telefonata delle Brigate Rosse che annunciavano la morte di Aldo Moro e che indicavano dove si trovava il suo corpo. Io ricordavo di aver smandato quel brano, ma non ricordavo chi fosse, o meglio, pensavo fosse un certo artista, che invece non era così. Ho cercato tra i miei dischi, scavando, facendo veramente una ricerca che mi era venuta poi la fissa, ma niente, non ne ero venuto a capo. Fino a che proprio ieri sono andato a ripescare questa compilation chiamata Mutazione, che in effetti mandavo un po' di anni fa quando uscì questo disco, e proprio in questa compilation si trova la traccia che veniva citata e ricercata dal nostro ascoltatore, ad opera di un progetto denominato Laxative Souls, un progetto di natura industrial, uno dei primi progetti di natura industrial provenienti dall'Italia. E proprio all'interno di questa compilation chiamata, ripeto, Mutazione Italian Electronic New Wave Underground Music, troviamo quel brano, ossia Laxative Souls. La traccia si intitola Nicolai e ora ce l'andiamo ad ascoltare. Sostanzialmente viene così resa ancora più tesa quella drammatica telefonata con delle sonorità elettroniche disturbanti. Nicolai Lactavis, Laxative Souls. E pronto, Franco? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È il nipote del dottor Franco Cristo? Sì, sono bene. Come sembrava di conoscere lui? Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia. Ma chi parla? Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene. Ha capito? Sì. Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa alla famiglia. Dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono se la sua conto non sta niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onore Aldo Moro. Il corpo potrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il positivo. Non posso ripetere, sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovete andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrete per forza. Mi dispiace, ma cioè, se lei telefona non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente qui. Parli con mio padre, la prego. Va bene. Pronto? Pronto? Grazie, mi dice. Guardi, lei dovrebbe andare dalla famiglia dell'onorevole Moro, oppure mandare il suo figlio, comunque telefonare. Sì. Basta che lo facciano, il messaggio ce l'ha già il suo figlio. Sì. Va bene? E non posso andare io. Lei può andare anche lei. Perché mio figlio non sta bene. Può andare anche lei, va bene? quello, il dramma mio era questo, cioè mi comunicavo alla famiglia perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene? Arrivederci. Va bene. E questa è la famosa celebre telefonata fatta ai Brigate Rosse che appunto indicavano dove era il corpo di Aldo Moro, e il tutto veniva musicato proprio da musicato, insomma, reso ancora più drammatico dalle sonorità digitali elettroniche industriali di Laxative Souls. Quindi, svelato l'arcano finalmente dopo vari anni di ricerca. Avevo questo brano ma non ricordavo dove si trovasse, me lo aveva richiesto un ascoltatore tempo fa, lì ho cercato ma non ero mai venuto a capo, e finalmente oggi è tornato qui e l'ho mandato ovviamente in onda. Ora non so se questo ascoltatore starà così collegato, non riesco a ricordare nemmeno chi mi aveva fatto la richiesta, però insomma in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Brano che ho estratto da questa compilation dove ci sono anche i Gas Nevada, e proprio qualche giorno fa sono stato al cinema, alla Sala Troisi, a vedere il film Going Underground, che abbiamo presentato a dovere perché proprio venerdì scorso abbiamo avuto ospite la regista del film, Lisa Bosi, che ci ha raccontato la realizzazione di questo lavoro, di questo lungometraggio, che poi sono andato a vedere appunto alla Sala Troisi, e che dire, è stato veramente un bel film che consiglio assolutamente di andare a vedere, riguardo la storia di Gas Nevada, ma che non è solo la storia di una band ma è la storia proprio di una città e di un periodo storico e artistico, perché si parte dalla fine degli anni 70 e si arriva all'edonismo della seconda parte degli anni 80, e quindi anche le evoluzioni dei suoni che vanno di pari passo con l'evoluzione della società. Da prima Gas Nevada si muovono in ambito punk, poi con l'avvento anche di eroina le atmosfere diventano ancora più scure e tese, post-punk, poi c'è il riflusso italiano, quindi dall'epoca degli anni di piombo che abbiamo anche appena documentato con la traccia di Laxative Souls, si arriva poi al periodo invece totalmente al contrario della Milano da bere, anche i suoni cambiano, arriva l'Italo Disco, e tra i maggiori promotori del sound ci sono proprio i Gas Nevada, che vanno verso quella direzione, e quindi si vede anche l'immagine di una Bologna che ospitava insomma grandi attività artistiche anche attraverso la Traumfabrik, dove oltre alla musica e musicisti c'erano artisti grafici. Alcuni dei Gas Nevada erano proprio dei grafici che lavoravano per alcune testate, poi c'era anche Andrea Pazienza, insomma, con tutti i suoi lavori, Scozzari e via dicendo. Insomma, un film che unisce insieme storia, luoghi e musica. Ve lo consiglio, se vi capita di andarlo a vedere, Going Underground per Gas Nevada e Bologna e un'Italia che era in costante mutazione. E allora ci ascoltiamo un periodo della parte Italo Disco dei Gas Nevada, ci ascoltiamo una traccia intitolata Living in the Jungle, e qui già era il 1985. The Amazon, the girls, Quando erano Italo Disco, a me i Gigas Nevada piacevano molto, anche perché poi erano Italo Disco molto particolare, perché se si ascoltavano anche i loro album considerati, ecco, quelli più ballabili, in realtà poi avevano sempre quegli elementi, si coglievano di vecchi amori, vecchie passioni wave post-punk che avevano caratterizzato dischi fondamentali come Six Soundtrack, ad esempio, anche in questo album con lo scimmione in copertina e che prende il titolo di Back to the Jungle, c'erano degli elementi che rimandavano a certe atmosfere del passato, però rese più danzabili sicuramente. Gran bel film, quindi ve lo consiglio, Going Underground per Gas Nevada. E saluto Orazio che ha apprezzato in precedenza la musica dello straniero, scrive molto particolari, mi ricordano un po' gli Usmamò, sempre ottimi consigli. Beh, mi fa piacere che hai apprezzato lo straniero e ti ricordo che questa band l'avrò ospite venerdì prossimo all'interno di Alternitalia. Vorrei dirvi anche che ho ospite, perché ho degli ospiti lunedì, l'ho visto anche stamattina ma adesso non mi ricordo che avrò ospiti a Puzzle, mi metto a ripensare bene bene, vediamo se mi torna in mente così ce li ascoltiamo. Di sicuro mi ricordo e ho piacere di segnalarvi, se vi troverete a Roma mercoledì ci sarà un concerto che riguarda, scusate, non mercoledì, giovedì prossimo, quindi la data precisa è quella del 6 marzo. Il 6 marzo al Magma sarà protagonista un bravissimo artista che si chiama Federico Maddeddu Giuntoli, in duo con Maurizio Bottazzi all'Arci Magma in via Galeazzo Alessi 212, zona Pigneto. In apertura l'altrettanto ottimo Massimo Amato, che ben conosciamo, e poi appunto Federico Maddeddu Giuntoli, che ci regalò ormai un paio d'anni fa un lavoro splendido, The Text and the Form, lui artista di provenienza pisana e che era stato il cantante di DRM. Bene, quindi The Text and the Form rimane ancora il suo ultimo lavoro, edito dall'etichetta giapponese Flow, un suono più che mai minimale, dei microsuoni assolutamente coinvolgenti ed emotivi. Federico Maddeddu Giuntoli, quindi ce lo ascoltiamo con Lolita, eccolo qui. Ripeto, giovedì dal vivo al Magma in via Galeazzo Alessi, in apertura l'altrettanto ottimo Massimo Amato. Federico Maddeddu Giuntoli, The Text and the Form, l'album che uscì ormai, se non addirittura 3 anni fa, boh, vediamo un pochino, 2022, sì, diciamo 2 anni e mezzo fa, era novembre 2022, un lavoro splendido che presentammo qui in studio con l'artista stesso, trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta ovviamente, e quindi sarà di scena al Magma in via Galeazzo Alessi al Pigneto questo prossimo giovedì 6 marzo, e oltre a lui, come detto, ci sarà anche l'altrettanto ottimo Massimo Amato. Questo è il suo più recente disco, intitolato Next Time Now, e questo è un racconto invernale. In fondo siamo ancora in inverno, prima abbiamo parlato di agosto, di mare, no, A Winter Tale, un racconto d'inverno per Massimo Amato. Winter Tale, un racconto invernale, quindi in questo inverno che scorre ci sarà questa bella serata giovedì al Magma a Pigneto, e quindi via Galeazzo Alessi con Federico Maddedu Giuntoli, che abbiamo ascoltato in precedenza, artista diciamo di provenienza pisana, e poi Massimo Amato Lucano, ma che vive ormai da tanti anni a Roma e che abbiamo ascoltato con il suo più recente lavoro Next Time Now, per l'appunto A Winter Tale, un racconto invernale. Uscirà invece a primavera questo primo lavoro di una bravissima artista che viene dalla Liguria. Lei si chiama Gaia Banfi. Io ho avuto modo già di ascoltare l'album e devo dire veramente notevole. Se vi piace, ecco, la ricercatezza un po' di Daniela Pes, anche il cantautorato comunque inquieto di Vipera, questa proposta di Gaia Banfi si muove su queste direzioni. Un lavoro molto bello anticipato da questa traccia intitolato Seia, quindi attendiamo a primavera l'album, però intanto ci gustiamo questa canzone che anticipa il tutto, Gaia Banfi. Thank you. veramente molto molto brava Gaia Banfi. Non vi so dire chissà come sarà il nuovo album, perché ho avuto modo di ascoltarlo ed è veramente bello, anzi devo dire che questa è una delle tracce belle, ma che forse fa pensare più a poi che ne so a Daniela Pes per certi passaggi, però poi in altri sviluppi dell'album, pur rimanendo molto particolare, ci sono degli spunti decisamente più personali. Veramente brava Gaia Banfi, quindi tenetela a mente perché presto arriverà il suo album. Bene, la memoria ha lavorato, ho fatto i miei collegamenti mentali, mi sono ricordato chi avrò ospite lunedì qui in radio, tra l'altro altre artiste che già in passato sono state dalle mie parti, e sì, perché ci sono le Lilies of Mars, assolutamente, che verranno ospiti da me, hanno realizzato questo bel album che è di natura, diciamo così, shoegaze, dream pop di assoluto fascino. Lilies of Mars insieme al chitarrista Stefano Guzzetti, l'album si intitola Shine, e allora lunedì all'interno di Puzzle avrò le Lilies of Mars. Bene, loro sono le Lilies on Mars di questo ottimo album che andremo a presentare poi lunedì all'interno di Puzzle, proprio con queste musiciste che hanno realizzato l'album con il chitarrista Stefano Guzzetti. Infatti il tutto esce a nome Lilies on Mars e Stefano Guzzetti, Shine. Penultimo brano per quest'oggi, dai, ce l'hai fatta in tempo a Cacharus che mi fa una richiesta per i Moda, la band che fu di Andrea Chimenti, la band New Wave che fu di Andrea Chimenti, quindi torniamo ad ascoltare qualcosa di anni 80, lo abbiamo fatto oggi con vari brani anche molto diversi tra loro e quindi ci stanno bene anche i Moda. E quindi tra poco poi arriverà la nostra Federica Pietra insieme ad Alessio Ramaccioni per quel che riguarda Talking Loud, chissà oggi di che cosa parleranno, sono in fervida attesa poi anche dello spazio così, come si chiama quello che ha inaugurato Valentino, abbiamo qui Federica, quello Talking Love. Talking Love ci sarà? Sì, chissà, da non perdere. E quindi io sarò di nuovo in onda, come ho già detto, lunedì con Puzzle, dove avrò appunto ospiti le Lilies on Mars. Poi sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning. E poi sarò di nuovo in onda venerdì prossimo con Alternitalia dalle ore 16. Avrò quindi dalle mie parti lo straniero che tanto sono stati apprezzati dal nostro ascoltatore Orazio. Oggi invece abbiamo avuto ospiti Immanuel Pistacchio, formazione romagnola che ha presentato il suo lavoro Pellegrino ed è già online l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, mentre tra una ventina di minuti o giù di lì arriverà invece in podcast l'intera trasmissione. E allora, ripeto, dopo l'ultimo brano affidato ai Moda, attenzione, i Moda, quelli di Andrea Chimenti, i Moda non li consideriamo proprio perché li trovo veramente inutili nel corso di tutta la loro carriera, mentre furono molto utili e validi sia i Moda che Andrea Chimenti con la sua carriera solista. Detto ciò, dopo ci sarà Talking Loud con appunto Alessio Ramaccioni e Federica Pietra. E poi dalle 20 Dario Pizzetti, Night Toys. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e buon weekend, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. In una trasmissione del Polverari non si può che concludere la conduzione se non con una canzone intitolata Polvere. Eccoli qui, loro sono i Moda. finestra e vedi polvere sulle strade che scende con